coppia. Miti e verità dello sport. Di Dario Ricci. Farà piacere un bel mazzo di rose. E anche il rumore che fai ce lo fanno. Ma una birra mi gola di più di questo giorno appiccicoso di caucciù. Il gregario degli ebrei. Beh, forse è nota la storia di Gino Bartali, che fu campione anche in questa veste, perché non solo il campionissimo che insieme a Fausto Coppi divise l'Italia e poi la riunì con i suoi successi a pedali, ma anche un uomo straordinario, un italiano straordinario, Ginettaccio, che senza quasi dirlo a nessuno entrò a far parte di una rete clandestina che in qualche modo riuscì a salvare centinaia di ebrei dalla deportazione durante il nazifascismo. E poi Ginettaccio fece ancora di più. Ebbene, è una storia che ci piace ricordare oggi con un ospite, un collega, ma soprattutto un amico. Benvenuto a Olimpia, Adam Smulevic, giornalista di Pagine Ebraiche. Grazie a voi per l'invito. Allora, Adam, dicevamo, parliamo oggi di questo grande campione che è stato Gino Bartali, in questa veste che gli ha fatto meritare appena pochi anni fa anche un riconoscimento ufficiale dallo Yad Vashem di Gerusalemme come giusto fra le nazioni. Bartali non fu solo campione in bicicletta, ma anche campione di straordinaria umanità. Lui, cattolico, cattolicissimo mi viene da dire, che però seppe rispondere a un invito del tutto particolare che gli arrivò durante i giorni, i mesi più difficili per il nostro paese e per gli ebrei italiani. Sì, assolutamente sì, lui seppe rispondere all'invito, intanto direi anche un invito della propria coscienza, perché lui era una persona che viveva il suo tempo ed era consapevole di quello che stava accadendo e soprattutto metteva il valore dell'umanità davanti a tutto. Perciò, ispirato da questa profonda e radicata convinzione che gli derivava anche da un'educazione familiare molto solida, si prestò come staffetta clandestina con la rete di assistenza dell'ASEM, che operò nel centro Italia e in questa veste distribuì documenti falsi, venne in aiuto a molti perseguitati, non solo ebrei ma anche perseguitati politici e di altro tipo. E poi andò anche oltre perché ospitò in una casa di sua proprietà, d'accordo con il cugino e meccanico e amico Armandino Sizzi, una famiglia di ebrei, una famiglia che conosceva anche da tempo, che aveva imparato ad apprezzare molti anni prima, in una Firenze ancora lontana, diciamo, dallo spettro, dal buio nazifascista, comunque una Firenze diversa negli anni 30, la Firenze in cui si trovavano a proprio agio i Goldenberg, una famiglia di origine fiumana, dei veri mitteleuropei, che incuriosirono molto anche la famiglia di Bartali, entrando in relazione già molti anni prima, e nel momento del bisogno, quando ci fu da tornare a Firenze perché Fiume era diventata la polveriera che tutti sappiamo, Gino Bartali non esitò, ci pensò proprio appena poche ore, non esitò a aprire la porta di questo stabile e nascose i Goldenberg. Eh sì, Adam, davvero strani tra l'altro i percorsi della storiografia, perché se la vicenda del Bartali staffettista divenne abbastanza nota già nel primo dopoguerra, malgrado la reticenza a cui accennavi da parte dello stesso Ginettaccio, l'episodio a cui fai riferimento in realtà è frutto proprio anche delle tue ricerche, perché sei tu che sei riuscito anche a individuare Giorgio Goldenberg, quello che allora era un dodicenne nascosto in questa cantina della periferia di Firenze, e permettendogli così di portare la sua testimonianza. Sì, qualche anno fa su Pagine Ebraiche, che è il mensile dell'Unione delle Comunità Ebraiche e d'Italia, abbiamo lanciato io e Sara Funaro, che è un'amica e una psicologa, adesso anche assessore del Comune di Firenze, insomma nel frattempo ha avuto questo importante riconoscimento. Insieme abbiamo lanciato una campagna di raccolta, insomma, di ricerca di testimonianze, con degli appelli, con delle ricerche sul territorio, perché ci sembrava che mancasse veramente un tassello importante, perché Gino Bartali era già stato insignito di un prezioso e importante riconoscimento alla memoria, quale la medaglia d'oro al valor civile, però diciamo da un punto di vista ebraico mancava il riconoscimento dei riconoscimenti, cioè l'iscrizione nel libro dei giusti dello Yad Vashem. Mancava perché mancavano delle testimonianze dirette. Ormai si sapeva che Bartel aveva fatto determinate cose, però la particolarità del suo impegno, il fatto che lui stesso fosse una staffetta clandestina e non si interfacciasse direttamente con i salvati, rendeva molto difficile colmare questa lacuna. Allora abbiamo agito, insomma, con diverse modalità, e pian piano siamo riusciti a recuperare a vari frammenti di questo mosaico, fino a quando pian piano, grazie alle diverse testimonianze, siamo riusciti ad arrivare a Giorgio Goldenberg. Giorgio Goldenberg ci ha aperto proprio un fronte del tutto inedito, cioè la storia di una famiglia nascosta in casa di Bartali, veramente un nuovo capitolo che si apriva. Giorgio Goldenberg ha raccontato con grande naturalezza questa storia, che era assolutamente straordinaria e stupefacente a sentirsela dire. Insomma, uno ovviamente tutto si sarebbe aspettato fuorché davvero aprire un capitolo del genere. Poi qualche giorno dopo averla raccontato, dopo essere stato intervistato, è andato anche allo Yad Vashem fisicamente a depositare la sua testimonianza. Eccola, direi che l'elemento più straordinario tra i tanti straordinari di questa vicenda è anche il silenzio di Bartali. Se pensiamo che i figli stessi, a partire da Andrea, che ancora oggi dirige la fondazione Bartali, sono venuti a sapere dell'esistenza della famiglia Goldenberg proprio quando siete riusciti voi a rintracciare Giorgio e a fargli raccontare la sua vicenda, no? Sì, è incredibile, veramente Ginettaccio ha centellinato molto i ricordi di quel periodo e molte parti le ha proprio tenute nascoste anche la sua famiglia, all'inizio per motivi di sicurezza, perché ai tempi della guerra naturalmente la moglie non voleva che si sentisse impaurita o andasse davvero in difficoltà, perché ovviamente era una responsabilità molto grossa. E poi col tempo lui ha sempre posto, diciamo, una barriera, perché era il suo carattere. Il figlio mi ha sempre raccontato, e questo devo dire che è una memoria che aiuta a capire il personaggio, mi ha sempre detto ma io mio padre tante volte ho cercato di stimolarlo, di fargli raccontare qualcosina di più, e lui ogni volta mi diceva capirai quando sarà il momento. Negli ultimi anni qualche cassetto della memoria si è aperto, ma non del tutto, e Andrea continua ancora adesso a portare avanti questa memoria, però chiaramente ci sono ancora, possibilmente ci sono ancora dei frammenti, dei tasselli da ricomporre. Questa è la speranza, e su questo fronte si sta ancora lavorando, perché è importante cercare di ampliare il più possibile questo panorama. Sì, insomma, è un percorso che, al di là delle tante centinaia di chilometri che Ginettaccio fece per portare anche quei documenti importantissimi, c'è ancora parecchio da pedalare, Adam. Beh, ti chiedo un'ultima cosa. Vero che lo Yad Vashem dedica una sezione in particolare anche a quei giusti che furono sportivi in vita e che videro in qualche modo intrecciarsi il loro destino di sportivi con quella che fu poi la scelta di aiutare gli ebrei perseguitati dal nazifascismo. Anche da questo punto di vista direi che è una ricerca ancora tutta da sviluppare, forse. Sì, direi proprio di sì. Insomma, ci sono alcune storie importanti, però di cui emergono solo forse dei dettagli. Insomma, sicuramente è un qualcosa su cui lavorare, e comunque sono ancora troppo poche, perché è vero che ci sono state tante persone, diciamo, che hanno voltato le spalle, hanno abbracciato l'indifferenza in quel periodo, ma ce ne sono state anche moltissime che non l'hanno fatto, e sicuramente gli sportivi veri, che hanno dei valori profondi, non si sono tirati indietro, e sicuramente c'è ancora molto da riscoprire. Su questo sono sicurissimo. Beh, e allora che l'esempio di Gino Bartali sia anche stella polare in queste future ricerche. Intanto grazie Adam Smulevic per aver rivissuto con noi questa storia fantastica e per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie. Quegli occhi allegri da italiano in città, e i francesi ci rispettano, che le palle ancora ti girano e tu mi fai dobbiamo andare al cinema e al cinema tu Ora una breve pausa, poi vi aspetto ancora qui a Olimpia per continuare a parlare di Gino Bartali, il gregario degli ebrei. Olimpia, miti e verità dello sport. Salva una vita, salva il mondo intero, recita il Talmud, uno dei testi fondanti dell'ebraismo. E Gino Bartali, pedalata dopo pedalata, ne salvò e come di vite in quegli anni oscuri del secondo conflitto mondiale. Oggi a Olimpia una testimonianza che non esito a definire eccezionale. Allora era un bambino di poco più di 10 anni. Oggi Giorgio Goldenberg, ultraottantenne, vive in Israele e attraverso la sua voce perpetua il mito di Gino Bartali, giusto fra le nazioni. Insieme ai genitori e alla sorellina, Giorgio venne infatti nascosto proprio da Bartali in una cantina di sua proprietà a Firenze per quasi un anno, prima della liberazione della città da parte delle forze alleate. Oggi Giorgio Goldenberg è ospite di Olimpia. Signor Goldenberg, benvenuto a Radio 24. Ci può ricordare come la sua famiglia entrò in contatto con Gino Bartali? Il babbo mio abitava a Firenze prima del suo matrimonio e conobbe Bartali ancora prima della guerra. Erano amici, erano anche vicini, che se ben mi ricordo. Poi si sposò e passò a Fiume, dove conobbe la mia mamma, e si sposarono. E rimasero a Fiume finché scoppiò la guerra. E quando Mussolini mise in atto le leggi razziali e a me mi cacciarono dalla scuola, allora il babbo con la nostra famiglia scappammo a Firenze, praticamente non a Firenze ma a Fiesole. Là per un certo periodo rimanemmo in pace, anche se tutto il villaggio sapeva, a quel tempo Fiesole era un villaggio, anche se tutto il villaggio sapeva che eravamo ebrei, ma nessuno ci diede noia, finché le sorti della guerra mutarono per i tedeschi e le forze alleate conquistarono il Nord Africa e cominciarono a parlare di invadere la Sicilia, di entrare in Sicilia. Allora cominciò un periodo pericoloso, perché allora cominciarono praticamente le retate contro gli ebrei, le retate della polizia, e per scappare. E a me mi misero in un convento e il babbo fu internato a Notaresco, che è un villaggio vicino a Rimini, sugli Appennini, ma là rimanei per un anno. E dopo questo anno, quando gli tedeschi praticamente conquistarono l'Italia, allora si creò una specie di triumvirato fra il cardinale di Firenze della Costa e il rabbino capo di Firenze Cassuto e un certo signor Raffaele Cantoni, che non so esattamente cosa faceva, mi sembra che era uno dei capi del Partito Comunista. Io ero bambino naturalmente a quel tempo. Gino Bartali si arruolò via il cardinale per aiutare chi che poteva. In questo contesto, come riuscì Bartali ad aiutare lei e i suoi cari? Fu lui che si mise in contatto con noi. Noi eravamo a Fiesole e lui sapeva che eravamo a Fiesole perché ci venne a visitare alcune volte mentre eravamo su a Fiesole insieme con Armandino Sizzi, e sapeva che eravamo a Fiesole. Poi quando la situazione ci fece praticamente molto pericolosa per gli ebrei, perché già erano cominciate le retate, erano gli inizi del 1943, allora Gino Bartali ci prese a casa sua. Cioè, io ero ancora nel convento di Santa Marta a Settignano, ma prese il babbo, la mamma e la mia sorella a casa sua, e per un certo periodo addirittura nel suo appartamento. Poi li mise giù nella cantina della sua casa. E la mamma insieme con lui vennero a prendermi dal convento, dal monastero di Santa Marta a Settignano, dove ero nascosto con un nome falso, e mi portarono anche in quella cantina, e là rimanemmo per più di un anno circa in quella cantina. Ecco, come si svolgeva la vostra vita quotidiana in quel piccolo e angusto rifugio? Eravamo praticamente rinchiusi, era una specie di prigione volontaria, diciamo, nel senso che nessuno mai usciva da quella stanza, perché era pericoloso, naturalmente i tedeschi passeggiavano per le vie, la mamma andava una volta ogni due settimane circa a prendere due stecchi d'acqua, perché non c'era né acqua corrente né elettricità né niente, e il mangiare praticamente secondo me era, io non ero piccolo, avevo 9 anni, 10 anni, ma credo che fosse Gino che ci portava giù da mangiare, credo una volta ogni due settimane circa, ci portava giù da mangiare, e lui stesso naturalmente lui poteva viaggiare nella Toscana perché aveva il diritto di allenarsi, ricevette il permesso dai tedeschi. Lui naturalmente andava fino a Assisi, dove prendeva da una tipografia clandestina dei documenti falsi, ci portò a noi documenti falsi, portò a molti ebrei distribuendo quei documenti che nascondeva nella canna della bicicletta e nel manubrio, e viaggiava per la Toscana distribuendo quei documenti secondo le istruzioni che riceveva dal cardinale della Costa, il cardinale di Firenze di quel tempo. Il 1944 fu l'anno della svolta, con l'avanzata alleata e la liberazione di Firenze. Sì, non fu così semplice, perché le forze armate degli alleati rimasero bloccate al Monte Cassino, alla linea del Monte Cassino, per un anno, più di un anno, e poi solo riuscirono a passare quella linea e arrivarono fino sulla sponda dell'Arno, ma rimasero dal lato meridionale della sponda dell'Arno per alcune settimane, credo, non so dare un periodo esatto. Molto tempo, e poi praticamente riuscirono a forzare quella linea di difesa dei tedeschi a Firenze. Noi nessuno usciva dalla cantina né da nessun posto, tutti erano, anche gli uomini, tutti gli uomini erano nascosti nelle cantine perché i tedeschi fermavano tutti gli uomini e li mandavano a lavori forzati, anche non solo ebrei, chiunque uno che passeggiava per la strada era fermato dai tedeschi e mandato a lavorare nei campi di concentramento di lavori per lavorare per i tedeschi, e a un certo momento riuscirono le forze alleate a passare quella linea di difesa dei tedeschi. Prima entrarono i partigiani italiani, poi cominciarono a entrare, se ben mi ricordo, canadesi, eccetera. Si sentiva gridare da tutti i tetti a quel tempo, se ben mi ricordo, che gli inglesi sono arrivati, gli inglesi sono arrivati, e naturalmente Gino venne giù per dircelo, per raccontarcelo anche lui. Ricorda ancora il momento della liberazione? Quando io sentii tutti i bambini gridare dai tetti e dai cortili che gli inglesi furono arrivati, uscii fuori per vedere chi sono questi famosi inglesi che sono arrivati, e vidi un soldato, anzi tutta una sfilata di camion che erano lungo la strada, e vidi un soldato con la scritta Palestina sulle spalle, come vanno i soldati con quelle scritte, e un Magen David, una stella di Davide sulla spalla, stava scritto Palestina. Io ero, devo dire che ero molto sospettoso, e non c'è da meravigliarsi, i bambini di quel tempo erano molto sospettosi tutti, perché ci girava con nomi falsi, ci si nascondeva nei cortili, non era una vita normale naturalmente, e feci finta di niente e mi misi accanto a quel soldato e cominciai a canticchiare l'inno nazionale ebraico, che è conosciuto già da alcune centinaia d'anni e che è sempre rimasto lo stesso, che si chiama Hatikva in ebraico, cioè la speranza. E quando quel soldato sentì che io canticchiavo l'inno nazionale, che a quel tempo era semplicemente una canzone nazionale, diciamo così, non so come dire, per un italiano il Piave mormorava, e la stessa cosa, non esiste italiano che non sa il Piave mormorava, la stessa cosa era naturalmente con questa canzone ebraica, la speranza, Hatikva. E quando lui mi sentì cantare questa canzone, venne da me, mi abbracciò, cominciò a parlarmi in inglese, io non capivo un H perché non sapevo l'inglese a quel tempo, e corsi giù, chiamai il mio babbo che venne su e cominciò a parlare col soldato, che era infatti uno dei soldati della brigata ebraica che combattevano a fianco degli inglesi per combattere i nazisti. Era quello il momento della libertà ritrovata. Cosa accadde dopo? Rimaneste in contatto con Gino Bartali? Poi, quando arrivarono le forze alleate, allora naturalmente cominciammo a uscire da quella cantina per un breve periodo. Poi naturalmente, non appena gli inglesi liberarono le Firenze e i tedeschi scapparono più verso il nord, allora il babbo uscì e trovò un appartamento, se ben mi ricordo, in via Cavour a Firenze, e lasciamo la casa di Gino, senza naturalmente tagliare i contatti rimasero, ma abitavamo già finalmente in un appartamento nostro. Se Gino non ci avesse nascosto, con tutta probabilità io non sarei qui e i miei genitori non sarebbero più. Fu lui che ci salvò la vita praticamente, non solo a me, ma lui salvò la vita a circa, secondo i calcoli della comunità israelitica di Firenze, lui salvò la vita a circa 800 persone, distribuendo questi documenti falsi, con nomi falsi, con tutto, che erano stampati in quella, come ho detto prima, in quella tipografia clandestina di Assisi, dove lui arrivava di nascosto, prendeva i documenti e li distribuiva poi secondo le istruzioni che riceveva da quel triunvirato composto dal cardinale Della Costa, dal rabbino capo e di quel signor Raffaele Cantoni, che, sebbene ho capito a quel tempo, è uno dei capi del Partito Comunista di quel tempo. Ecco, signor Goldenberg, conserva ancora oggi un ricordo personale o magari un cimelio legato a Ginettaccio? Sì, io ho una sua fotografia personale che mi ha dedicato con la sua firma. Lui venne su a Fiesole una volta perché io avevo il compleanno, per esempio, e non mi ricordo, mi sembra 8 o 9 anni, e mi portò una biciclettina in regalo. Era un amico di famiglia in questo senso, perché lui sapeva quando era il mio compleanno e venne su, e naturalmente tutto il villaggio, quando vide il Gino Bartali che arrivò su a Fiesole, tutta i dintorni vennero a salutarlo, eccetera eccetera. Quindi per noi era una cosa naturale, per noi non era il campione, non c'è alcun dubbio, era la persona che ci ha salvato la vita, ma era anche un amico, non so se mi spiego, non era solo una persona che si doveva guardare con una certa distanza, perché era un amico di famiglia. La sua testimonianza, signor Goldenberg, è stata decisiva per l'ammissione di Bartali tra i giusti delle nazioni, commemorati dallo Yad Vashem di Gerusalemme. Io naturalmente tentai e riuscì a far iscrivere Gino Bartali nel Libro dei Giusti, si chiama il Libro dei Giusti, e lui infatti in una cerimonia a Firenze che ebbe luogo un paio d'anni fa, insieme con Renzi, che era a quel tempo il sindaco di Firenze, e ricevette, non lui, suo figlio Andrea, ricevette a suo nome questa onorificenza, che è una medaglia civica al valore, diciamo così, che lo Stato ebraico emette a quelli che salvarono gli ebrei. Io sono grato a quello che ha fatto Gino Bartali per noi. Per me è un senso di dovere espandere, di dover raccontare le peripezie, gli eroismi di Gino Bartali di quel tempo. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.